è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui 18 e 36 minuti con la Zanzara fino alle 21 per ascoltare soprattutto i vostri commenti sui fatti del giorno. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Andiamo subito a sentire il TG2. Le donne del settore pubblico in pensione a 65 anni entro il 2012 è la richiesta della Commissione europea. Sacconi, non ci sono margini di trattativa. Il governo tedesco vara una maxi manovra per fronteggiare la crisi, 80 miliardi di euro in 4 anni. Angela Merkel, risparmiare è necessario, dobbiamo dare l'esempio. Un neonato è stato rapito nell'ospedale di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, lo avrebbe portato via una donna vestita di bianco scambiata per un'infermiera. Siamo oltre 60 milioni e 300 mila, l'Italia cresce ma grazie agli immigrati, lo dice il rapporto dell'Istat, sempre di più gli anziani, in calo invece le nascite. E andiamo anche con Studio Aperto. Ospedale di Nocera Inferiore, un neonato rapito poco fa dal reparto maternità. Il piccolo, nato questa mattina, è stato preso da una donna vestita di bianco scambiata per un'infermiera. Prato caccia a tre rom che hanno tentato di portare via un bimbo di un anno e mezzo che giocava sul balcone di casa. Giallo a Monza, una donna uccisa nel suo appartamento, una profonda coltellata alla gola e una ferita alla testa con il ferro da stiro. La vittima era vedova e viveva con i suoi tre figli. I giovani maschi e l'amore, l'indagine del Ministero della Salute sulle abitudini sessuali dei diciottenni. Scoraggianti i risultati, i ragazzi sono poco informati, fanno sesso non protetto e imparano tutto parlando con gli amici. Viva la RAI, fa crescere sani, viva la RAI. Viva la RAI, quanti c'è. Beh, vi dico subito che non capisco questa abitudine. È l'abitudine che ha il Presidente del Consiglio, a fine anno il Presidente della Repubblica, sempre a fine anno, c'è la conferenza stampa. Anche i conduttori, e non tutti i conduttori principali, anzi soprattutto Santoro, ha la conferenza stampa di fine stagione. Ed è un modo per parlare di tutto e di più. È successo anche quest'anno con Santoro, alla fine ormai ci sarà l'ultima puntata, credo il 10 giugno, di Anno Zero. Se la prende soprattutto con Garimberti, mi deve dire chiaramente il presidente della RAI se vuole continuare l'anno prossimo, sì o no. Se il presidente Garimberti mi dice rimani, fallo Anno Zero, fallo, ripeto, non so se è stato chiaro il concetto, aprile, maggio, rivediamo, vediamo quali sono i programmi più giusti che tu possa fare, compagna bella. Per me va bene, io rimango in Rai e viviamo tutti felici e contenti. Deve dire Anno Zero deve andare in onda quest'anno, a nome del Consiglio di Amministrazione della Rai o a nome mio personale e di quelli che la pensano così, penso che Anno Zero debba andare in onda, basta. Questo taglia la testa al toro, oppure, guarda... No, lui ha detto che sei tu che devi decidere... Ecco, quindi, appunto, no, appunto, lo dicevo non per sono la io che deve decidere, è un'azienda che deve decidere. Mamma Rai... Non ti abbandona mai, se lo vuoi. La cosa che io trovo massimamente odiosa è il fatto che vedo intorno a me progressivamente gli spazi di libertà inaridirsi e sempre di più diventare importanti queste cittadelle assediate. Non va bene così. E poi a un certo punto l'intervento di Luca Telese con il direttore di Rai 2 Lio Fredi, sentitelo. Io non ho capito, perché penso che forse il direttore di rete, cioè la prima persona che dovremmo sentire è lui. Se lui vuole Anno Zero in onda l'anno prossimo. No, no, non io no. Giuro, dal discorso io avevo capito che lui lo voleva, cioè l'ha annunciato come guarda, il programma più importante. Il problema Santoro è un problema sul tavolo del direttore generale e del consiglio di amministrazione. Poi ogni diciamo, valutazione personale, è logico che le chiedo scusa, senza se commenti, mi faccia finire però, senza come commenti. Si può discutere una trasmissione che ha questi risultati, logicamente non la puoi discutere, ma è logico che, come guarda, rimaniamo né più né meno al 23 quando abbiamo affrontato la prima conferenza stampa. Io dissi che mi ritrovavo questa trasmissione oggi, devo dire a un anno di distanza, è logico che è un valore della rete anno zero, indubbiamente, però ma è un valore della rete. No, Telese, è un problema. Io come l'ho trovata, logicamente è logico che è una trasmissione che fa un risultato di questo genere, non la puoi discutere, nessun direttore sarebbe qui a discuterla, assolutamente. È una considerazione in questo momento, è una considerazione personale a cui non posso dare espressione perché c'è una decisione in corso, ci sono delle trattative in corso e quindi sarebbe da parte mia scorretto nei confronti dei vertici aziendali. Se lei mi chiede che cosa penso di Santoro, glielo ho detto. Prima o poi, Luca, ti cacceranno dalle conferenze stampa, ne sei consapevole, sì? Che devo fare? Perché alle conferenze stampa bisognerebbe fare le domande. E invece nessuno le fa? Io faccio delle domande, ma sai... No, devo dire la verità. L'imbarazzo di Diofredi, hai fatto bene naturalmente a insistere, perché uno la può pensare anche, e probabilmente la pensiamo diversamente, su Santoro, la RAI, sul modo in cui Santoro esterna, eccetera. Però insomma, se un direttore di rete va a una conferenza stampa, poi a un certo punto dica quello che pensa, altrimenti che ci va a fare? Guarda, a me mi ha molto colpito questo, ma lo dico sinceramente, io avrei avuto più rispetto di Diofredi se avesse detto io Santoro non ce lo voglio, ma uno che arriva in conferenza stampa e dice questo è il programma più importante, addirittura è stato decisivo, perché questa è la prima parte della sua produzione, nel sorpassare Mediaset, e poi dice però non posso dirvi che cosa penso di questo programma. Allora uno serio di destra, perché ripeto, qua bisogna difendere la destra seria, direbbe io sono il direttore di rete e vorrei questo, sono io decisivo? No, e vabbè, se non sono decisivo questa è la mia opinione. Invece questi hanno paura di dire addirittura quello che pensano, ma non solo lui, anche quel tartufone di Garimberti, che risposta è? Ma non sono io a decidere, sei presidente della RAI? Vuoi Beh, effettivamente non decide. Allora lui, dici, se penso che la libertà passi per Santoro come lui dice, allora o Santoro o mi dimetto, se invece non lo penso dico vai a cagare Santoro, ma non queste cose che dicono, sembrano delle amanti, sembrano dei messaggini di Penè, una cosa tristissima. Cioè abbiamo di fronte un personale politico da Garimberti, Diofredi è solo un epigono, ma Garimberti è ancora peggio, che non vuole prendere decisione, cioè loro stanno nei posti. Ma in realtà non può decidere, ma non può decidere. Ma quello può darsi, Luca, e però poi chi è che decide? Ma il presidente della RAI... che cazzo è che decide? Il presidente RAI dice io non conto nulla, il direttore dice io non conto nulla, allora veramente si decide solo ad Arcore. No, decide Masi, decide la maggioranza del consiglio di amministrazione, come al solito, come è successo in tutte le vicende della RAI. Decide no, il direttore generale. No, no, non è così, perché come sapete e come sapranno anche i telespettatori, nel caso di Santoro c'è una sentenza, Santoro è in onda per una sentenza. Addirittura Santoro aveva detto se vi prendete questa responsabilità, sì, io rinuncerò allo scudo che la sentenza mi dà nella prossima stagione. Quindi non è così, cioè loro dovrebbero soltanto dire sì o no, ma non lo vogliono dire, vogliono avere l'autista e non prendere nessuna decisione. Allora non c'è da rispettarli. Senti, troppo. Quando te ne sei andato l'altro giorno, la tua amica Giorgia Meloni, ministro della gioventù, senti cosa ha detto su Santoro, poi tu sei fuggito per lavorare e lei ci ha regalato qualche perla su Santoro, quella che tu chiami la destra moderna. Senti. Francamente io lo trovo fazioso per il servizio pubblico, ma questo non vuol dire che sia incompatibile, voglio dire, ci sono un sacco di cose che nel servizio pubblico, anche insomma nella nostra accezione perfetta di servizio pubblico, non funzionano. Un altro ancora. Secondo lei, se l'anno prossimo alla RAI non ci sarà Santoro, sarà una perdita oppure no? Ma no, penso francamente di no. Io penso che in generale si possa fare a meno di tutti. Di tutti, anche quello di, sicuro. Anche di Giorgia Meloni, insomma. Non sarà una perdita per la RAI. E su Minzolini, senti Telese, su Minzolini. E il TG1 di Minzolini le piace? Le pare un telegiornale obiettivo? Sì, le pare un telegiornale obiettivo. Telese? No, sorda, che cosa ho detto? È finita. Come è finita? Veramente, io credo in questo paese serva un po' di gente che va. Allora, Minzolini è l'attendente di Berlusconi, quindi deve essere difeso. Ma nessuno che sia un giornalista può dire il TG1 di Minzolini è bello, no? Ho capito, adesso restiamo sulla Meloni. Restiamo sulla Meloni. La Meloni dice, domanda, il TG1 è obiettivo secondo lei? Sì, è obiettivo. Delusione. Sei deluso o no? Vede, dillo. Ma la Meloni non lo vede, ti giuro, che a quell'ora lavora. Cioè lo deve dire per forza. Minzolini è percepito come uno degli esponenti del centrodestra, si fa muro e lo si difende. Ah, lo deve dire per forza e non ci crede, questa è la tua interpretazione. Lo deve dire per forza e non ci crede. Io penso che non ci crede, chiunque difenda Minzolini non lo vede o non ci crede, però è una mia opinione. Poi c'è una frase di Santoro dell'ultimo secondo, una frase di Santoro, ultima ora su Santoro, ultima ora, torniamo a settembre, 18:46, traffico. Viva la RAI, fa crescere strani, viva la RAI. L'ipotesi di accordo nasce perché te ti presenti al settimo piano Viale Mazzini, ufficio di Madre, e dici vogliamo fare un accordo e nasce dal fatto che nessun'altra persona, nessun altro autore per un intero anno ha subito quello che ho subito io. Ti è chiaro? È chiaro. Oh, va bene, in tutte le forme possibili e immaginabili, come lo vuoi chiamare? Mobbing, violenza, come lo vuoi chiamare? Come ti pare? E allora chiamatelo come la domanda. Funzionario Rai. Allora, questo è il tono di Santoro nei confronti di un giornalista di Libero, Enrico Paoli, però è una pantomima, lasciamelo dire, perché dopo la risposta di Garimberti, la trasmissione può cominciare, Michele è una risorsa per l'azienda, prendo io il cerino acceso, adesso Santoro dice no. Torniamo a settembre. No, come no, è così, basta con questa farsa. No, la risposta è che Garimberti era non ho aziendalmente il potere di prendere da solo. Eh beh, questo è corretto. Le decisioni riguardano a zero. Ma io dico, ma in questo paese ci sarà uno che decide? Ma io lo dico, buon nostalgia. Ma la RAI no, perché è fatta in modo che non ci sia qualcuno che decida. Agnes. Allora, bisogna cambiare le cose, non è organizzata dal punto di vista gestionale in modo che ci sia qualcuno che decida sul serio, è un continuo compromesso. Ma questo Santoro lo sa benissimo e ci gioca. Ti dico una bestemmia, se Garimberti voleva... Santoro, come dire, o volesse veramente Santoro, potrebbe dire: ragazzi, sono il presidente di garanzia, se c'è Santoro resto, se no me ne ma vado. Perché ma se ne dovrebbe andare? Perché se ne dovrebbe andare? Per Santoro, perché? Perché Santoro viene combattuto in Rai perché c'è una volontà del Presidente del Consiglio di mandarlo a casa, e questo nessuno che non sia un cameriere può accettarlo. Però converrai sul fatto che questa vicenda è scoppiata, io penso che su questo tu sei d'accordo, perché a un certo punto Santoro raggiunge un accordo, sarà come dice lui, perché non può più fare la trasmissione come vuole, perché ci sono troppi ostacoli. Ma non riguarda Santoro. Dopodiché c'è stata una rivolta contro Santoro da parte dei suoi fan, da parte del pubblico, eccetera, e lui è dovuto tornare indietro. Questo è vero o no? Ma io l'ho detto qua che pensavo che fosse sbagliato quello. Addirittura penso che la vicenda di Santoro travalichi Santoro stesso. Non è più solo Santoro sì e Santoro no. È la Rai che cosa diventa? Dico Rai 3, ci mettono tre puntate di Minoli sull'anniversario del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Sai che palle? Cioè diventa la TV dell'accesso. Diventa senza una lira, diventa programmi grigi, Mediaset, che cosa è iniziato? Dov'è che si fa l'informazione oltre che sulla 7, se stabilizzano anche Santoro? Cioè io sono un po' preoccupato, ma penso che chiunque dovrebbe essere preoccupato, o no? Io non sono molto preoccupato. Cioè, e poi l'altra cosa incredibile, ma c'è un processo in questo paese, il Watergate, no? Perché sì, è molto meno grave il Watergate, in cui è stato beccato il Presidente del Consiglio e dice chiudetemi anno zero. Solo per questo anno zero dovrebbe andare in onda, cioè non è che si può attuare quello che il Presidente in modo illecito chiedeva alle autorità. Ah, in modo illecito è tutto da verificare, poi non è che chiedeva la chiusura di anno zero, come? Dai. Come no? Togliete le palle Santoro, che vuoi di più? I funzionari dell'autorità che concordavano con quelli di Forza Italia in modi del ricorso, che cos'è questo? Questa è l'immagine dell'impotenza di Berlusconi a agire Rai. Però è così impotente che Santoro viene cacciato. Scusa, ma dove viene cacciato? Ma dove resta? Ma che dici? Fa quello che vuole. Fa quello che vuole Santoro, può decidere di arrivare ad un accordo, può decidere di restare. Lo vedi che fa quello che vuole alla fine o no? Perché grazie a Dio c'è una sentenza della tua odiata da te magistratura. Odiata allora da te. La magistratura lo dici anche tu. No, assolutamente no. Però senti questo difensore di Briatore, voglio sentirti ancora su Briatore, sentilo, l'affranco, sentilo. Dispiego di mezzi degno della cattura di un mafioso, si passa il filmato del sequestro dello yacht alle televisioni come è avvenuto per le catture dei grandi latitanti, e non si aspetta neppure che questa barca rientri nel porto, voglio dire, merita di essere sottolineata questa cosa, cioè credo che nessuno debba essere ritenuto sopra la legge, ma non è che per il fatto di essere noti e famosi si debba essere trattati diversamente dagli altri. Da un momento. Non c'è alcuna necessità di dare questo tipo di importanza mediatica a una roba che francamente non è né la cattura di un mafioso né di uno stupratore né tantomeno un grave caso di corruzione per esempio in ambito politico. Qui stiamo parlando di un'eventuale situazione di mancato pagamento di accise sulla benzina, robe altro francamente non così gravi. Interrogazione di Lanfranco, PDL, Luca, pare che una mail tra l'altro metta un po' in difficoltà Briatore, da quello che leggo. Ma allora adesso voglio la tua autocritica, voglio che tu scendi dal pelo. Vabbè, adesso per una mail è tutto, cioè, da accertare ancora. Fatto due palle così su diritti, Briatore, cioè si è suicidata una donna perché non ha lavoro, c'è gente che lo perde, ci sono i negozi che chiudono e tutti insorgono perché arriva la Guardia di Finanza sullo yacht di un evasore. Oggi, no, evasore, attento, non è mica stato accertato che è un evasore. Presunto evasore. Ah, ecco, oggi, ecco. Il Corriere della Sera pubblica una mail in cui lui, parlando con il suo avvocato, dice, l'avvocato dice, ma che sei matto, vuoi perdere il controllo della barca? Quindi evidentemente era sua. Vabbè, hai già tratto le conclusioni. Ma tu c'hai qualche dubbio? Beh, io qualche dubbio ce l'ho, certo che ho qualche dubbio, ho sempre dei dubbi. Ne parliamo ogni volta però viene meglio. Allora, questa barca, cioè i ritratti della Gregoraci, si chiama FB con le iniziali di Flavio Briatore, però non è sua. Ma è fantastico! E allora? Non possiede nulla, povero ma uomo! Ma sulla Franco, l'interrogazione parlamentare su Briatore, dimmi qualcosa. Questo si è fatto un po' di pubblicità, poverino, ma vado a difendere quelli che non hanno lavoro, no? Può zappare in miniera. Zappare in miniera addirittura. Salvatore da Como! Buonasera, dica. Mi scuso, ma mi trovo in una farmacia. E che sta facendo in farmacia? Sto comprando una pomata miracolosa. Per fare cosa? Per telese, così se lo sollevo un po'. No, e non ha bisogno. No, che pomata miracolosa per che cosa? Salvatore, ci spieghi, siamo curiosi noi. No, sto comprando qualcosa che non posso fare pubblicità, quindi... Vabbè. Comunque, vengo in aiuto di telese. Un prodotto per le emorroidi. Chiedo scusa, ma non le mie, neanche le tue, quelle di qualcun altro. Allora, io volevo dire, se a tutti questi direttori, fantomatici direttori, invece di chiedere sei d'accordo che la trasmissione di Santoro va in onda, gli chiedessimo sei d'accordo che tutte le stelle, la ballata delle stelle, il ghiaccio, domenica vadano in onda perché fanno successo, direbbero tutti sì, sul Santoro non si esprimono perché se no c'è la frusta se si esprimono sul Santoro, ed è uno. Secondo, beh, Liofredi è un po' in difficoltà, A te ti sei, dottor Cruciani. Ma in generale la sua posizione traballa come direttore di Rai 2? No, non traballa. Poi come cosa, non traballa? Adesso una domanda un po'... Io la chiamo spiritosa. Io la stimo moltissimo perché seguo questa trasmissione da anni. Ci sono 30 lei, secondi. Lei ogni tanto ci va o ci è? Io? Perché, voglio dire, tutti sappiamo da dove è partito il problema Santoro. Da dove parte. Quindi... Ma io guardi, Salvatore, devo chiudere, devo chiudere perché c'è il giornale radio. Siamo qui alle 19:17 con La Zanzara in diretta fino alle 21. TG3. L'Europa, le statali in pensione a 65 anni dal 2012. Sacconi giovedì decide il Consiglio dei Ministri. Bonanni dice no all'opinione di Emma Bonino al TG3. Non graviamo sui conti dello Stato. Il presidente Abete replica a Calderoli. I soldi per i premi degli azzurri arrivano dalla FIFA. Anno zero deve andare avanti, la risposta del presidente della RAI Garimberti a Santoro, che aveva chiesto una chiara decisione dell'azienda. 4 sub palestinesi uccisi nelle acque di Gaza, aiuti iraniani verso la striscia, sotto accusa la deputata araba sulla flottiglia. I penitenziari italiani sconvolti da suicidi, aggressioni e rivolte dei detenuti e del piano carceri del governo, si sono perse le tracce. Le scuole italiane alle prese con i tagli di bilancio, genitori e insegnanti protestano contro la riduzione del tempo pieno e le classi sovraffollate. Corea del Nord, un quarto della ricchezza destinato agli armamenti, povertà e penuria nelle campagne, negata ogni possibilità di dissenso. Ebbene, questo era il TG3 che ha la notizia di Santoro tra i titoli. Andiamo con Sky TG24. Diktat europeo, donne in pensione a 65 anni entro fine 2011. La Germania corregge i conti, manovra da 80 miliardi in 4 anni. Quella italiana resterà di 25, Confindustria insiste per i tagli. Sacrifici anche per il calcio, Abete risponde a Calderoli, i premi li dà la FIFA. Intercettazioni, ultimi ritocchi al testo, da domani battaglia in aula al Senato. Neonato rapito in ospedale in provincia di Salerno, caccia a 2 donne. Gaza annuncio di Teheran, invieremo 3 navi della Croce Rossa cariche di aiuti. Marea nera, 120 miglia di costa contaminate e conseguenze per anni. 2 anni di carcere per 20.000 morti, sentenza farsa per il disastro del Bhopal. Mondiali meno 4, sale l'allarme organizzazione dopo gli incidenti di ieri. Calderoli, se non ci fosse Calderoli bisognerebbe inventarlo, ogni tanto ne tira fuori una. Addirittura, e vi dico addirittura, ha ragione Cannavaro quando dice siamo un paese ridicolo, lo dice anche Buffon, perché un ministro, il ministro della semplificazione, a un certo punto se ne esce sui premi ai calciatori, sui premi della nazionale, su quello che decide autonomamente una federazione, poi sono premi comunque pagati dalla FIFA. Calderoli parla di cose che non conosce, pure parla, sentitelo. È ovvio che non si può intervenire con una legge dello Stato rispetto a certi stipendi, ma perlomeno che i giocatori della nazionale abbiano la previsione di un premio che sia rapportato al momento della crisi e anche un gesto da parte loro di buona volontà, svolgendo un ruolo di estremo livello, ma a titolo onorifico, anche perché guadagnano tanti bei soldoni con le rispettive squadre di calcio, e quindi ho fatto anche questo appello alle società perché ridimensionino gli ingaggi dei calciatori. Qui tra l'altro c'è proprio un errore di fondo, si pensa che siccome è un momento di difficoltà allora bisogna ridurre gli stipendi, insomma bisogna intervenire su meccanismi di mercato, non è che la crisi sospende il mercato, Calderoli! Sentitelo ancora, ridurre lo stipendio dei calciatori. Dopo le prestazioni, che io mi auguro siano solo di rodaggio della nostra squadra, forse l'ultimo degli argomenti di cui parlare erano dei premi, ecco. Prima si porta a casa l'orso, poi si vende la pelle, e invece qui si è iniziato a vendere la pelle prima ancora dell'orso. E poi se la piglia con l'Inter, anche in un'intervista questa mattina al Corriere della Sera, dice mi girano le balle, perché i soldi di Moratti, i soldi che Moratti mette nell'Inter sono anche soldi dello Stato, e fa un ragionamento tutto contorto, le sovvenzioni dello Stato per lo smaltimento, tutto un ragionamento ridicolo, sentite. Una squadra simbolo, ecco, quella che ha vinto il campionato italiano senza avere italiani, che forse rappresenta un paradosso. Purtroppo noi abbiamo perso completamente il nostro vivaio andandoci a comprare i prodotti finiti a suon di miliardi, e quando questi miliardi se li spende il padron di turno va bene, quando questi miliardi magari sono arrivati attraverso lo Stato mi girano un po' le balle. Ah, fine febbraio Michela Vittoria Brambilla annunciava i promotori della libertà, la fondazione di una nuova legione. Recependo di volta in volta le tue indicazioni, organizzeremo questo esercito, come ben l'hai chiamato, su tutto il territorio nazionale, dal nord al sud, pronto a mobilitarsi. Opererò, come ben hai detto, in raccordo con il coordinamento nazionale, con il settore tesseramento. Sono certa che faremo un buon lavoro. Io credo che potremmo contare su un'immediata mobilitazione di un forte movimento di opinione, scendere in campo al tuo fianco, al nostro fianco, per sostenerci. Quindi questo è quello che faranno i tuoi promotori della libertà. Ed è arrivato anche un messaggio di Berlusconi, lottare per la libertà, un messaggio recentissimo, un messaggio, credo, di sabato, di Berlusconi ai promotori della libertà che adesso devono impegnarsi contro gli sprechi dello Stato. Ma di che stiamo parlando, Berlusconi? Cari amiche, cari amici, che vi fregiate del titolo di promotori della libertà, e credo che dobbiate convenire con me che è qualcosa che ti fa sentire importante, che ti fa sentire inserito in una battaglia, appunto, di libertà, per la promozione della quale dobbiamo tutti insieme lottare, perché ricordiamocelo, questa libertà è tutti i giorni messa in dubbio dall'oppressione fiscale, dall'oppressione tributaria, dall'oppressione giudiziaria. E adesso reggetevi forte. Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi ha l'ultima parola di venerdì contro Saviano. Devo dire la verità, è diventata un po' una moda, Ha scritto giustamente Battista, anche se è legittimo criticare le posizioni che Saviano prende, eccetera, però devono avere anche una loro consistenza, secondo me. E allora, Vittorio Sgarbi, reggetevi forte, perché non è facile sentire queste cose, e chiamateci 800 24 00 24. La prima cosa è questa, l'ho detto sul serio, La scorta non gli impedisce di... Vabbè, facciamolo dire a Sgarbi, va. Ha fatto un bellissimo romanzo e a questo punto racconta, povero me, che devo stare sempre con la scorta, comodissima la scorta. La scorta serve per i semafori, per non fare le code, non è affatto vero, lui piange la scorta, poverino deve stare, dice Soffri, in un carcere militare, no, sta a casa sua a dormire, ma non dirmi che la scorta, poverino, ti impedisce di andare a scopare, scopi, no. E la scorta sta sotto tranquilla, non è vero, non chiedere niente, no. Niente di male, la scorta, sto diventando un refrain, quindi non facciamo la retorica che la scorta è una forma di... E lo avete sentito allora, la scorta non gli impedisce di scopare, proprio questo dice Sgarbi e questo diciamo anche noi. Ma non lo vuole ammazzare nessuno poi, casomai lo volevano ammazzare prima. Io ho denunciato la mafia molto più di Saviano e la denuncio tutti i giorni contro lo schifo che hanno fatto in Sicilia. Lui ha rappresentato una realtà. Ora non capisco perché uno deve essere il martire di quale mafia. Ma chi lo uccide Saviano? Dovevano ucciderlo prima. Non lo uccide nessuno. Faccia la vittima della scorta. Francesco da Cagliari, buonasera. Buonasera. Dica. Un sacco di argomenti sono stati fuori da questi titoli. Vabbè, insomma, parli di qualcosa. Calderoli, vorrei sapere se gli stipendi della Nazionale Padania sono già stati decurtati. Ma no, ma secondo lei ci sono i premi per la Nazionale Padania? Beh, dovremmo chiedere. Ma no, sarà tutto volontariato. Lei dice, Ganz è un volontario della Padania. Sicuramente. Non ci sono premi per aver vinto il campionato del mondo contro il Kurdistan, credo. Sarà come i volontari della libertà. Lei dice, Sembra che sono tutti, fanno tutti volontariato. Vabbè, insomma, poi... Francesco, che mi dice? Sì, sulla questione di Santoro, io spero proprio vivamente che il programma vada avanti, perché è una vita che quando c'è qualche programma che non è allineato, sparisce, come era successo. Io parto più o meno dalla cartolina di Barbato. Addirittura. Sì, anche quella era sparita. La che le cartoline non gli erano piaciute al Premier. Lei dice, Sì. All'inizio. Lei parte da lontano. Vabbè, lei si augura che Santoro rimanga, ma ormai insomma mi sembra che sia cosa sicura. La ringrazio, andiamo a Rimini, Luigi. Non c'è più, e allora la borsa, così riprendiamo il filo tra qualche istante. Ha fatto un bellissimo romanzo e a questo punto racconta, povero me, che devo stare sempre con la scorta. Comodissima la scorta. La scorta serve per i semafori, per non fare le code. Non è affatto vero. Lui piange la scorta. Poverino, deve stare, dice Soffri, in un carcere militare. No, sta a casa sua a dormire. Ma non dirmi che la scorta, poverino, ti impedisce di andare a scopare. Scopi no. e la scorta sta sotto tranquilla. Non è vero. No. Non capita niente, no. Niente di male. La scorta, sto diventando un refrain. Non facciamo la retorica della scorta è una forma di... Questo era Sgarbi, Sgarbi su Saviano, lo avete sentito. La scorta in fin dei conti va bene per passare i semafori e poi lui fa quello che vuole anche nella sua camera da letto con la scorta sotto. Luca da Verona 800 24 00 24 c'è anche lui te l'ho messa stavolta. Luca Telese, eccolo qui. L'hai sentito? L'hai sentito Sgarbi? Sì, su Saviano. Strepitoso come sempre. Strepitoso, però insomma, in questo caso un po' l'ha fatta fuori dal vaso, o no? Ma Vittorio è un artista pop, sarebbe come dire Andy Warhol, oppure Manzoni, oppure I tagli nella tela, è una forma d'arte, non sono opinioni, sono di più e di meno. Beh, interpretazione originale. Luca da Verona, buonasera. Sì, buonasera a lei. Dica. Sull'uscita di Calderoli, che probabilmente ha sbagliato, nel senso che è vero che i premi ai calciatori vengono pagati dalla FIFA, la cosa però che è altrettanto evidente è che le spese per il viaggio e la trasferta ai giocatori li paga la collettività, quindi non mi sembra giusto, specie in un momento di crisi, che si pubblicizzino le spese e si cerchi di privatizzare l'utile a danno dei cittadini. No, non ho capito niente, scusi, dov'è sto privatizzazione dell'utile, pubblicizzare le spese? Me lo spieghi lei diversamente, chi è che paga le trasferte per i giocatori? Per stare ho capito, ma la nazionale ha gli sponsor, la nazionale ha degli sponsor. Non mi sembra. Ma avrà degli sponsor, ma di sicuro, guardi, i bilanci sono pubblici, vada a vedersi cosa c'era scritto sui bilanci degli anni scorsi e vedrà che non è con gli sponsor che stanno lì, stanno anche con i soldi che gli dà la FIGC, che è sovvenzionata dallo Stato, quindi non vedo perché io di tasca mia devo tirar fuori dei soldi per mantenere lì dei giocatori che poi si tengono i premi, ma non perché voglia i soldi indietro, sarebbe quantomeno un bel gesto dire bene, vinciamo e i soldi li distribuiamo, che ne so, a quei bambini che hanno i genitori in cassa integrazione, quest'anno non si iscriverà. Senta Luca, mi sembrano delle argomentazioni un po' inconsistenti, devo dire la verità. Ma a me sembra inconsistente la sua confutazione delle mie argomentazioni. No, perché ci confrontiamo, voglio dire, non è che la crisi fa sospendere il funzionamento della squadra nazionale di calcio, il mercato, la distribuzione dei premi se uno vince, non è che deve spingere per forza alla solidarietà più estrema, non capisco. Sì, ma non capisco nemmeno tutto l'entusiasmo che ci si mette a difendere questi poveri giocatori che ma chi lì, qual è entusiasmo scusi un attimo mi dica, Luca. Ma non c'è nessun entusiasmo, qui c'è un ministro che è il ministro della semplificazione Calderoli, il quale non mi pare che abbia tutte queste competenze per quello che riguarda i premi delle nazionali di calcio eccetera, dice a un certo punto prima dei mondiali ridurre i premi ai calciatori, ma che vuol dire? Infatti ho premesso che quello è sbagliato, di contro dico anche che visto che non si possono ridurre i premi e i soldi per la FIGC li stanzia al governo, si potrebbe dire va bene i premi teneteveli, riduciamo le spese, questo nessuno lo dice e rispetto a quello che dicevo prima sull'entusiasmo è stata sintomatico oggi l'entusiasmo che ripeto la parola che ci ha messo la Melandri nel difendere quei poveri giocatori e dire ah povero Calderoli sei proprio uno stupido, Calderoli non è stupido, probabilmente ha sbagliato un po' diciamo così le sfumature del discorso che ha fatto, ma nel merito io trovo che ha ragione insomma. Va bene Luca, per carità, io rispetto la sua opinione, ma abbiamo qui caro Luca Francesco Speroni che è europarlamentare della Lega, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Io bene, grazie. Dove si trova? Bruxelles, nel mio ufficio. Sempre a Bruxelles lei? No, sempre, quando c'è attività parlamentare. Che tasso di presenza ha lei a Bruxelles? Penso il 100%. Addirittura il 100%. Cioè lei non perde una seduta da quanto deve, in questa legislatura? In questa legislatura, sì. Non ha mai perso una seduta fino adesso? No, ho avuto la salute, No, per carità, mica volevo mettere, in dubbio la sua salute, però insomma, va bene, mica è sbagliato essere presente al 100%, anzi ce ne vorrebbero altri come lei che fossero sempre presenti al Parlamento europeo. Gli italiani come sono a presenze? Lei che magari controlla? No, io non controllo, controllo magari qualcuno dei miei, visto che sono capo delegazione e capogruppo. C'è qualche birichino tra i suoi, no? No, birichino no, però dipende, magari qualcuno ha anche altri impegni, per carità. Penso a qualcuno che ad esempio è capogruppo a Palazzo Marino a Milano. Quindi... il mio amico Salvini, Salvini. Qualche impegno. Lo bacchetta, quindi... lo bacchetta un po'? No, non lo bacchetto perché ovviamente ha le sue giustificazioni, insomma. Poi tenga presente che non sempre... può essere utile presenziare proprio a tutte le riunioni. Ripeto, io sono uno dei più presenti anche perché ho questa responsabilità, sono co-presidente del gruppo e, dunque, e certo. Quindi ho qualcosa in più da fare rispetto agli altri. Senta, ora mi dica la verità, Speroni, lei se lo può permettere dopo tanti anni in politica, anche se non è di primo pelo, insomma. Il ministro Calderoli. Ma cosa se ne esce sui premi ai calciatori? Ma che vuol dire? Non ha nessun significato. Allora, visto che ci si esce sempre coi tagli ai ministri, coi tagli ai dirigenti dello Stato, eccetera, no? Di solito, se facciamo un paragone, dicono tutti che noi parlamentari siamo strapagati, no? Io dico siamo pagati bene, non sono di quelli che si lamentano, che fanno i pianistei, eccetera. Però se guardo il rapporto di quanto prendo io e quanto prende un calciatore... beh, insomma, piglio almeno 10 volte di più uno proprio. Ma quello è il mercato, ovviamente. Però, Speroni. È il mercato. Allora noi. Poi voi vi siete aumentati lo stipendio, dicono, leggo da qualche parte recentemente. Beh, no? Noi parlamentari europei ce lo siamo diminuito. Quello italiani perché vi siete parametrati agli altri, diciamo, no? No, ecco, gli italiani comunque... Però recentemente ho letto da qualche parte che c'è stato anche un piccolo aumento... Allora qui sono le solite storie. Non ci è dovrebbe vero. Essere un aumento ancora non deliberato per retribuire i nostri collaboratori. Sì, quello. Però, diciamo, se si aumenta i soldi che la Fiat dà ai dipendenti, questo non vuol dire che Marchionne guadagna di più, no? Ecco, quindi se a un certo punto il Parlamento decide... di dare più soldi ai miei collaboratori, a me non va in tasca un euro, ecco, questo voglio dire. Ho capito. È sbagliato dire che i soldi ai collaboratori sono del parlamentare, perché... bisogna dare soldi in più ai collaboratori, secondo lei, al Parlamento europeo? C'è bisogno? C'è bisogno perché in effetti è aumentato il lavoro. Col Trattato di Lisbona, penso che chi ha detto i lavori lo sa, ma chi segue un po' l'attività europea sa che siamo passati a moltissime competenze rispetto a prima. Vabbè, lei dice c'è bisogno perché ci sono competenze in più, c'è bisogno di dare soldi in più ai nostri collaboratori, è giusto? Dunque, quant'è? 1.500 euro al mese in più? Sì. 1.500 euro al mese in più. Benissimo, lei dice è d'accordo con questo aumento. Ai collaboratori. Ai collaboratori, certo, speriamo che vanno tutti ai collaboratori. Sì, poi, no? Poi ripeto, per i calciatori in effetti può essere libero mercato, eccetera, bisogna vedere quanto la mano pubblica interviene a sostegno del settore del calcio. Di sicuro interviene, guardi, posso dire. Sì, ho capito, però solo... Calderoli ha parlato di premi. Secondo lei ha sbagliato o no? Ma secondo me non ha sbagliato. I premi fanno parte comunque di quello che uno mette in tasca. Ho capito, ma è la FIFA quando uno vince il mondiale c'è la FIFA che paga, eccetera. Allora, ma anche se fosse la federazione, l'Italia, la nazionale porta soldi come sponsor, come tutto. Ma io non so se la nazionale porta soldi o li fa spendere, perché è tutto da vedere. Perché pensiamo solo ai soldi che si spendono per garantire l'ordine negli stadi. Io penso anche alla manutenzione degli stadi, cioè le società di calcio o pagano poco o pagano addirittura niente per lo stadio. Non è che pagano un affitto proporzionato al valore dell'impianto. Ho no? capito. Quindi sì, però tutti questi discorsi, tutti i soldi che vengono risparmiati finiscono ai calciatori. Su questo possiamo discutere, Speroni. Calderoli ha parlato dei premi. Non tocchiamo niente a nessuno. Diciamo che i deputati continuano a prendere i soldi che pigliavano, i ministri pure, i dirigenti dello Stato anche. Allora perché solo una certa categoria deve fare i sacrifici? Ho capito, Speroni, però è difficile intervenire sugli stipendi dei calciatori. I stipendi dei calciatori li decide il mercato, dunque parlare di premi. Allora forse l'errore di Calderoli può essere quello. Lui ha buttato lì perché ovviamente qualche conto è dare anche un segnale, no? Voi siete Lei dice anche il calcio poi ci deve ridimensionare. Esperti dell'informazione, intanto se ne parla. Se avesse detto riduciamo i contributi che lo Stato dà alla Federazione del Calcio, che dà al CONI, che poi finiscono comunque anche quelli dei calciatori, o che dà per la manutenzione degli stadi, roba del genere, avrebbe fatto un discorso magari tecnicamente più corretto, ma nessuno se lo sarebbe filato. Ho capito. Tutto qua. Senta, intanto mi aggiornano che le sue presenze sono del 97,96%, vabbè, che non è il 100%, però va, insomma, è lo stesso, insomma, più o meno lo stesso. Ma lei farà il tifo per l'Italia, Speroni, da leghista oppure no? Io non ho mai tifato per un passaporto, devo essere sincero. Cioè non farà il tifo per l'Italia? Io le dico, io tifo, ma non solo nel calcio, io non sono un tifoso del calcio, lei non mi vedrà mai in uno stadio, cioè sì, non vado, non seguo le partite, cioè sono un tifoso di Formula 1, se proprio devo essere ecco sincero, preferisco un altro sport, mi piace ancora di più il motociclismo e tanti auguri a Valentino Rossi. Vabbè, ci stanno. E io sono un tifoso di Valentino Rossi, ma non perché è italiano, perché Valentino Rossi è un grande campione. La nazionale invece, la nazionale non è entusiasta. Come sono tifoso di Schumacher, cioè tifare una bandiera, un passaporto, mi sembra che sia esattamente il contrario dello sport. E dunque manco per la tifare per chi sportivamente è valido. Ora non nego che la nazionale di calcio italiana sia sportivamente valida, per carità, perché ha vinto due mondiali di fila, se non ricordo male. Beh, no, due mondiali di FIFA di fila, no. No, qual è che l'ha vinto? L'ha vinto nel 34 e nel 38, due di fila, ma insomma. Dunque, l'ultimo quando l'ha vinto? L'ha vinto quello lì che c'è stato Materassi col francese lì, no? Beh, sì, Speroni, ma lei di calcio lei di calcio non mastica molto, mi sa. No, io mastico la parte forse negativa che non mi piace. Non mi piace lo sport dove uno dà la testata, quell'altro insulta, quello fa lo sgambetto, no, quell'altro perché tiene per la maglia, eccetera. Lei non è obbligato. Nell'82 l'ha vinto, 82 poi 2006, quattro 2006. Volte la vittima. Vabbè, comunque, l'ultimo mondiale è adesso si presenta in Sudafrica come titolare del campionato mondiale. Sì, no? Sì, esatto. È campione in carica. È campione in carica. È valida. Lei non fa il tifo. Io non faccio il tifo per nessuno perché il calcio non lo seguo. Benissimo. E per la Padania fa il tifo? Ha fatto il tifo, ha vinto il campionato del mondo dei paesi non riconosciuti, là dei popoli. Ma guardi, io sono andato proprio ieri mattina a Malpensa ad accogliere i nostri calciatori e le nostre calciatrici perché hanno vinto. Addirittura come un tifoso così ad accogliere i. Ma per dare un così, abito a due passi da Malpensa, sono andato insieme a Umberto Bossi a salutare. Benissimo, quelli che sono benissimo. Telesi, hai sentito Luca? Sto sentendo, ma. Io vorrei legare le due cose, cioè penso perché che questi sono sportivi che non guadagnano un euro, che lo fanno così simpaticamente, mi è sembrato giusto andare a dire sono contento che avete vinto. Però Speroni, non ho seguito, non ho guardato e non vado alle partite. Il regno delle due Sicilie, il Kurdistan, insomma, mi sembra una roba così di basso livello, no? L'ho detto anche a Renzo Bossi, l'ho detto anche. Dal punto di vista tecnico, sì, ripeto, io le partite non le guardo, non so giudicare. E siamo qui alle 19:47. Senta Speroni, ma insomma lei è andata a Malpensa con Bossi ad accogliere la nazionale femminile. La femminile che ha fatto a proposito, la nazionale padana femminile? Ha vinto femminile. Anche quello, ho detto. Pure quella ha vinto, pure quella, due volte campioni del mondo. Sì, sì. Beh, insomma, ma ripeto, un campionato organizzato così, intendo, non penso sia riconosciuto dalla FIFA o da nessun altro. Sono dei dilettanti che si divertono a fare delle partite, che forse è lo sport più vero, insomma. No, certo. Senta Speroni, però, insomma, lei, caro Telese, Speroni ha detto una cosa nel fine settimana che ha fatto traballare i vertici del PDL. Ha detto, a volte il PDL assomiglia a un bordello. Perché entrano tutte le puttane della Prima Repubblica. Tutta la Prima Repubblica è dentro lì. E non posso dire. Tutta. No, come non tutta? Qualcuno è rimasto fuori. Qualcuno è andato anche nel PD, per carità. Ma insomma, come le è venuto in mente? Mi spieghi questa parola, bordello? No, a me non è che sia venuto in mente, nel senso c'è stato un giornalista che mi ha fatto una domanda e io soprattutto ricordando che Berlusconi ultimamente, mi pare proprio ricevimento al Quirinale, no? In cui tra l'altro io c'ero, quindi tutte le polemiche, tutte balle, no? Però ha invitato anche Rutelli a entrare nel. Sì, c'era anche Telese, sì, a entrare nel PDL, sì, nel comunque PDL, dopo che l'ho offerto a Casini, eccetera. Sì. Allora, io ho usato delle espressioni decisamente forti. Posso dire, però tant'è che Cicchito le ha dato del troglodita. Come risponde a Cicchito? Bravo, ecco, a Cicchito, come ha fatto bene chi? Telese, ha fatto bene chi? Meloni, la voce è la verità. Cioè, no, vabbè, adesso non sono uno teneo, diciamo, che volta abbiamo ovviamente ha detto cose che tutti pensano, ha fatto bene. Sì, ovviamente, diciamo questo, e voglio dire di più, se c'è uno aspetti un attimo, Speroni, sentiamo delle sì. Se c'è uno che fa il 97% di presenze, a prescindere da come la si pensi, bisogna dargli un premio di produzione, basta con queste, con questo straccionismo per cui se uno vince il mondiale bisogna tagliargli il compenso. Vale per Speroni come per gli azzurri. Speroni ha vinto il suo mondiale, ha delle percentuali di presenza veramente bulgare, gli va dato un premio, non gli va tagliato. Scusa, Telesia, ma Cicchito lo sai che ha detto di Speroni che appartiene a una classe dirigente vecchia, alla Lega, altri dirigenti. Speroni, ma insomma, so Cicchito. Allora, con Cicchito ho cercato di spiegarmi. Aspetta un attimo, Telesia, facciamo rispondere. Sì. Allora, con Cicchito ho cercato di spiegarmi, ma non sono riuscito a parlargli. Vabbè. Non so se è lui che non vuole parlare con me o sono problemi tecnici. Beh, le ha dato l'elettroclodita, le ha dato l'elettroclodita. Vabbè, ma io non è che ho usato parole tenere, è normale, no? Visto quasi parole da stadio, visto come siamo partiti, no? Ecco, ma chi sarebbero queste, voglio dire, in questo bordello? Perché lei ha utilizzato la parola bordello? Beh, mi è venuto in mente così perché appunto, diciamo, di certe persone, ma non parlavo di Cicchito. Parlavo di quelli che, se vogliamo usare termini un pochino meno forti, possiamo dire dei giratori di valzer, no? Mm. Non so se qualcuno ricorda Metternich, l'Italia che è passata dalla triplice alleanza allo scontro con gli imperi centrali, eccetera, no? Un po' di cultura ce l'ho anch'io, ecco, anche se qualcuno mi definisse troglodita. Però Cicchito ne ha parlato, perché ha detto non posso dimenticare che Cicchito era capogruppo dei socialisti. Ecco, lì devo dire mi sono sbagliato. Cicchito era deputato socialista per due legislature, ma non è mai stato capogruppo, lo è adesso. Quindi, poi ecco, vabbè, lì anche lui forse male informato, perché ha detto che io sono invidioso, di qui di là. Io non sono invidioso, sono capogruppo qua, quindi non è che... E tra l'altro non sono un esiliato al Parlamento europeo, perché nel 1999 ho scelto io di lasciare il Parlamento italiano, ero senatore in carica, per candidarmi alle europee, mi trovo bene qua, lo preferisco, c'è tanti altri leghisti validi che possono lavorare nel Parlamento italiano. Senta però Speroni, lei dice perché entrano tutte le puttane della Prima Repubblica, ecco, chi sarebbero queste puttane della Prima Repubblica che entrano nel PDL? Non chi usiamo più questo termine, che magari poi mia moglie mi fa un mazzo così, eccetera. Ah, perché sua moglie che le ha detto, sua moglie? Ma le tre certe parole è meglio non usarle, posso concordare anch'io. Telese, però si tira indietro Speroni, Telese. No. Dico che un attimo, Speroni, un attimo, Speroni, un attimo, Telesi. Un vero leghista andava giù duro e tirava fuori i proiettili, i bergamaschi in armi. Lo vedo un po' istituzionalizzato. No, non so, diciamo, li voglio chiamare giratori di valzer, appunto. Cioè, gente che, a differenza di noi leghisti, lei non troverà un parlamentare leghista che è stato parlamentare con qualche altro movimento politico. Vabbè, non è di per sé una cosa positiva questa, però. No, per me è una cosa positiva invece. Cioè, se uno vuol cambiare, importante è che siano bravi, però. Non è importante. No, ecco, qui non stiamo prendendo un dirigente dalla General Motors, lo portiamo alla Fiat. Qui si parla di politica, quindi uno vuol dire che deve avere anche delle idee. Non stiamo parlando di un funzionario del Parlamento. Vabbè, lo dico io. Scusa, però non è vero. Giuseppe, molti leghisti hanno precedenti politici. Sì, tra l'altro questo. Lei mi dica, allora, Speroni, che è stato... come è noto, ha cominciato a Democrazia Proletaria. Sì, allora, io sto parlando. Veniva dal movimento sociale, poi è uscito e va bene. No. Cioè, tutti hanno avuto dei. Bossi è stato iscritto al PC, vi do Bossi aveva simpatie di sinistra, ma non è stato iscritto al PC. Come aveva no? Simpatie di sinistra, frequentava la sezione di Samarate, ma non è mai stato iscritto. Tanto ma per c'era fatto lì col pugno chiuso, la festa del tesseramento. Ma cioè infatti l'ho la detto. Tessera. Infatti è no, la tessera non ce l'ha, guardi. Vabbè, comunque quello che vuole dire Telese, Speroni, è che anche diversi, a livello istituzionale, sì, ma anche diversi dirigenti leghisti, questo vuole dire Telese, hanno un passato comunque nella Prima Repubblica, certo non a livello di altri, allora, però comunque un passato ce l'hanno, non è che nascono passato, dal nulla. Vabbè, però poi dipende anche che tipo di passato. Io mi riferivo soprattutto a Rutelli, tanto per dirne una, no? Sì. Cioè Rutelli ha cominciato radicale. Ma Rutelli mica nel PDL, è all'opposizione. Ma Berlusconi l'ha invitato a entrare nel PDL. Ah sì, ma quello era uno scherzo, Berlusconi con tutti. Non è uno scherzo, perché allora anche l'invito a Casini è uno scherzo. Casini non Casini è stato anche vostro alleato però, fino a poco tempo allora, fa. Allora, ripeto, certi alleati per me è meglio perderli che trovarli. E lo dico chiaramente. A Berlusconi gliel'ho detto, a proposito di Casini, l'ho detto già nel 94. Che a me certa gente non piaceva. Poi io non sono uno che decide. Se a un certo punto la Lega ha piacere o ha interesse, perché la politica è fatta anche di quello, ad avere degli alleati che prima sono stati democristiani, che poi sono stati di qui, poi sono stati di là, a me va benissimo. Io semplicemente ho espresso un'opinione del tutto personale, senza, ecco, senza dire che le persone sono scadenti, le persone non valgono. Beh, ha detto che sono le puttane della Prima Repubblica. Non ho so, detto, ho usato così un'espressione così, tanto per farmi sentire un pochino in maniera forte. Senta, ecco. Ma sua moglie che cosa le ha detto? Mi spieghi, questo mi interessa. Per certi termini è meglio non usarli, e vabbè. Però posso dire che li chiamiamo girovalzisti, a me non piacciono. Ho Poi dopo, ripeto, la politica è fatta anche di quello. Si vede anche negli Stati Uniti, che hanno una tradizione diversa, c'è qualcuno che passa dai repubblicani ai democratici, sì. Non molto, perché lì c'è solo due possibilità di scelte, e vabbè, si usa. Io ripeto, preferisco quelli che entrano con un movimento politico e tutta la vita il movimento sono politico quello. Fallisce, roba del genere, lasciano la politica, o rimangono, come c'è ancora oggi, qualcuno che è ancora iscritto a un qualcosa che ha partito socialista, per dire tutto qua. Ho capito. Cioè, anche perché, oltretutto, con molte di queste persone io ho combattuto anche battaglie abbastanza aspre, quando, perché io sono senatore dal 92, nel Parlamento europeo dall'89, questi li ho visti dall'altra parte, e poi a un certo punto armi e bagagli passano, ma non so se veramente ha cambiato le idee. Per carità, io ammetto anche che uno possa cambiare le idee, diceva Montanelli che solo gli scemi non cambiano idee, no? Quindi uno può anche nella sua vita cambiarli. Quando lo cambia 3-4 volte comincio a essere sospettoso, tutto qua. Va bene, Luca, che bisogna aggiungere su questa cosa del bordello, eccetera? Insomma, Calderoli si è fatto Speroni si è fatto bacchettare dalla moglie. Ha detto certe parole non bisogna più usarle. Non si capisce se ha subito di più Cicchito o la moglie. O la... Sì? No, non ho capito. Se lei ha subito più Cicchito o la moglie. Dopo ma no, ripeto, sul piano personale lo stimo Cicchito, ci mancherebbe. No, però ha subito, ci mancherebbe che non è una persona capace. Ho capito, però lei ha subito di più la reazione di Cicchito o quella di sua moglie? Mi pare di capire quella di sua moglie. Ma sì, perché con Cicchito, ripeto, non ho un cattivo rapporto, nel senso l'ha dato è stato il primo nome che mi è venuto in mente. Diciamo che quando ero ragazzo, Cicchito era sempre sui giornali quando era nel Partito Socialista, no? Sì. Quando il giornalista lì, immagini di affari italiani, mi ha detto faccio qualche nome, il primo nome che mi è venuto è Cicchito, perché per me era... Vabbè, pure lei, Speroni, tanti anni in politica ha fatto un nome così a caso, Cicchito, il primo. Perché ripeto, quello che mi è venuto in mente... Le ha dato l'elettroglodita subito, troglodita. Ripeto, vabbè, è uno scambio di opinioni violente, chiamiamola così, ecco, ma non è che ci pigliamo a cazzotti. Parlando di socialisti, c'è stata un'epoca in cui adesso mi ricordo chi è stato ucciso in duello, un deputato, no? E chi era? Adesso non mi ricordo. Telese, soccorrimi tu, chi è stato ucciso in duello? Un deputato? Secondo me si sta riferendo a Felice Cavallotti, ma andiamo un po' indietro al tempo, era proprio socialista. Però effettivamente fu sfidato. Adesso al massimo uno dice una parola, quell'altro troglodita, finisce lì, insomma. Penso. Va bene, grazie Speroni, grazie. Prego e buona continuazione. Forza Italia mondiale o no? No, Forza Italia e mondiale non ripeto, lo dice. Ma ripeto, il calcio non lo seguo. Ma come, va a cogliere la Padania all'aeroporto? Non lo segue. È andato lì con la bandiera all'aeroporto alla Malpensa. Perché quella si chiama Padania ma non segue la bandiera. Come? Quella si chiama la Padania e? E io non avevo la bandiera. Ah, ho capito, vabbè, con la bandiera era un modo di dire, insomma. Vabbè, sì, si chiama Padania, dunque la Padania è più importante dell'Italia, la nazionale padana? Per lei? Beh, per me la Padania viene prima dell'Italia. Telese! Vabbè, come Busto Arsizio viene prima di tutto il resto nel mondo. Ho capito, no? Adesso qui è un altro discorso. Questo qui è tutto un altro discorso, vede? Questo è il discorso Peroni di chi lo Stuart, condivide varie identità. Tutto il mondo prima abbiamo parlato di curdi, eccetera. C'è chi prima si sente turco e poi curdo e chi viceversa, no? Chi prima si sente basco e poi spagnolo e chi prima si sente spagnolo e poi basco. Io mi sento prima padano, tutto qua. Va bene. E questo... Penso di avere la mia legittimità, anche in Italia c'è qualcuno che prima si sente su tirolese e poi italiano. Dunque lei è europarlamentare? Il loro partito. Lei è europarlamentare di chi? Dell'Italia o della Padania? Lei è europarlamentare di chi? Beh, io sono stato eletto nel nord-ovest e quindi rappresento il nord-ovest. Ma non è europarlamentare italiano? Allora, io non sono rappresentante dell'Italia come era scritto nella vecchia legge, ma io rappresento, se vogliamo, tutta l'Europa. Cioè, io sono un deputato europeo eletto nella circoscrizione nord-ovest dell'Italia. Proprio lei l'Italia omette, la mette per ultima? No, non la metto per ultima. Perché ovviamente ci sono i miei concittadini italiani, coloro che mi hanno votato hanno passaporto italiano. E c'è qualcuno che si sente anche italiano, per carità. Qualcuno, magari Peroni, la maggior parte. Ma quando magari la Europa, non so di quelli che mi hanno votato, che... Telese. Io rispondo soprattutto, ai miei elettori, perché sì, un eletto certo. Penso che debba rispondere agli elettori. Telese, che volevi dire? Ma dico, quando lui va a Strasburgo, i suoi colleghi gli dicono che è italiano, mica gli dicono che è di Busto Arsizio, quindi è una finzione logica che si è inventato lui. Non è che gli dico, ah, tu che sei di Busto Arsizio, no. Ma sei del nord-ovest. Ecco, qui in Parlamento italiano non è che si vota per europeo, sì. Per paese. Parlamento europeo non si vota per paese. No, ma vota per no, però gli, i suoi colleghi, vuole dire i suoi colleghi, vuole dire Telese, non è che la chiamano Calderoli, quello che si è, Speroni, quello il che rappresenta il nord-ovest. No, dicono Speroni dalla Lega, ovviamente. Va bene, grazie, grazie, grazie. Del PPE. Grazie, ho i telegiornali. Siamo qui alle 23 minuti TG5. Una falsa infermiera ha rapito a Nocera Inferiore un neonato di poche ore dalle braccia della mamma con la scusa di portarlo alla nursery. Nessuno spazio di trattativa con l'Europa sull'aumento dell'età pensionabile per le statali. L'Italia rischia pesanti sanzioni. Sacconi, deciderà il governo. Euro ai minimi, borse in altalena, rigore e tagli alla spesa pubblica in tutta Europa. I leader più popolari, nonostante la crisi, sono Lula e Berlusconi. Nel Golfo del Messico, task force al lavoro per salvare animali e coste dalla marea nera. Ci vorranno anni e miliardi di dollari alle spese della BP. Fumano non solo sigarette, sono poco informati sul sesso e hanno rapporti non protetti. Questa è l'inquietante fotografia dei liceali di oggi. Dalla Bullock a Madonna, da Benigni a Dustin Hoffman, baci tra donne o tra uomini esibiti sotto i riflettori. Sfida alle regole, trasgressione, gioco o moda. In anteprima al TG5 il video di Waka Waka di Shakira, canzone ufficiale dei mondiali di calcio. I proventi in beneficenza per il continente africano. TG1. Nocera Inferiore, neonato rapito in ospedale da finta infermiera. Si cercano in tutta la Campania due donne in un'auto verde. Bruxelles, entro il 2012 le statali in pensione a 65 anni. Sacconi, non abbiamo spazi di trattativa. L'Iran sfida Israele, invieremo 3 navi pacifiste di aiuti a Gaza, Gerusalemme, grave provocazione. In Turchia i funerali di Monsignor Padovese, Asia News sostiene la pista dell'omicidio politico, il killer dicono non è pazzo. Porto Gruaro, con la figlia in braccio, insegue cane sui binari per salvarlo, muore investito da un treno, grave la bimba di 7 mesi. Conto alla rovescia, nuovo studio, nuova grafica, nuovo sito internet. Al 10 giugno il TG1 cambia veste e si rinnova. Maria Grazia Cucinotta per la prima volta al cinema senza veli nel film L'imbroglio nel lenzuolo. Bene, l'attrice... Paolo, provincia di Latina, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Senta, io volevo parlare di Saviano e di Santoro, però sentendo gli ultimi interventi dei due politici, dicevo... Pensavo che erano come due ciechi che fanno a cazzotti, che ognuno parla, si stima, però poi alla fine non dicono niente di nuovo. A chi si riferisce, mi scusi? Agli ultimi due che sono intervenuti. No, è intervenuto solo uno, Speroni della Lega Nord. Speroni della Lega Nord. Comunque un discorso è che, soprattutto una piccola accusa a quelli della Lega Nord, è che dovrebbero più guardare all'Italia, non solo a poche regioni del nord Italia, anche se li stimo soprattutto per quello che hanno fatto al nord, assolutamente. Va bene Paolo, grazie. Domenico da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Ma io vedo in quello che ha detto Calderoli, a distanza di una settimana dalla mancata presenza alle festività del 2 giugno, invece un'esortazione ai giocatori della nazionale per giocare per amor patrio e non per un premio di vittoria. quindi sì, Domenico, guardi, scusi un attimo, oggi il calcio è fatto in un certo modo, anche le nazionali sono pagate con i premi, non mi sembra una cosa scandalosa, per cui non lo è assolutamente, cioè voglio dire, di cosa stiamo parlando? Ridurre i premi ai calciatori, ridurre gli stipendi ai calciatori, non sono cose che, per carità, probabilmente le sovvenzioni pubbliche al mondo del calcio potrebbero, si potrebbe pensare a tante cose, ma è un discorso che non ha senso alla radice, capito? C'è un ministro della semplificazione che parla del fatto che il mondo del calcio dovrebbe ridimensionarsi, non è che questo pauperismo lo trovo assurdo, perché non è che l'economia funziona. Ma questo sono d'accordo, e che io vedevo un po' una contraddizione in quello che sostiene Calderoli, dicendo probabilmente vuole per, che si giochi per amor patrio, per amore dell'Italia, quindi un po' una contraddizione in quello che generalmente professa. Ho capito. Ma siamo d'accordo, qui è una legge di mercato, non è pensabile ridurre gli stipendi dei calciatori, perché non avremmo i migliori, se ne andrebbero via. No, cioè, ma a parte questo, insomma, poi tra l'altro Calderoli ha anche detto di fare il tifo per l'Italia, al contrario di Speroni, ma su questo c'è una divisione all'interno della Lega Nord, dipende insomma dalle sensibilità. Siamo qui alle 20:11 minuti, 800 24 00 24, e abbiamo con noi l'onorevole Livia Turco del Partito Democratico. Buonasera, come sta? Buonasera, bene, però vi sento poco. Ci sente poco, adesso miglioriamo. Sì. Cerchiamo di migliorare. Grazie. Senta, ma io trovo sacrosanta una cosa, per carità, le modalità si possono discutere, l'Unione Europea, il governo che prima aveva detto di no, ma questa cosa delle donne che devono andare in pensione, non dico come gli uomini, ma insomma in maniera graduale sempre più avanti negli anni, lei non la trova sacrosanta questa cosa, oppure no? Dobbiamo capire bene cosa ci chiede l'Europa. Non è che l'Europa dice che bisogna andare in pensione tutti a 65 anni, dice che bisogna equiparare le condizioni di lavoro di donne e uomini. L'Unione Europea mette in risalto il fatto che le condizioni di lavoro di donne e di uomini sono diverse e dice che, nel senso di una profonda disparità nei confronti delle donne, e dice che quello dell'età pensionabile non è un risarcimento adeguato. Io credo che su questo l'Unione Europea abbia ragione. L'età pensionabile non è un risarcimento adeguato. Il problema è che bisogna adeguare il nostro welfare. E quindi bisogna investire su tutto ciò su cui non si è investito, dai servizi degli asili nido ai servizi per gli anziani, alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Questo è il welfare nuovo. In questo paese si parla sempre di nuovo. Sì. Ecco, questa è una grande novità, anzi è la grande novità. Però voglio dire, l'opposizione su una cosa del genere, cioè sull'aumento dell'età pensionabile delle donne, adesso al di là del fatto che l'Unione Europea ci costringe a farlo, non ci costringe, forse non lo so, su questo che posizione ha? Che posizione dovrebbe avere secondo lei? Quella di dire, siccome quella di dire sì, è giusto, adeguiamo questa cosa gradualmente o no? Io sono d'accordo con la posizione che ha espresso e illustrato Cesare Damiano. Individuiamo una condizione di base uguale per donne e uomini, 61-62 anni, e poi prevediamo un'uscita flessibile fino a 70 anni, perché questa è la vera risposta, sia in termini di rispetto dei diritti dei lavoratori, della loro qualità della vita, sia in termini di efficienza e di produttività del nostro sistema. L'uscita flessibile. Dunque mi pare che lei, quando il governo dice a 65 anni entro 2012, mi pare che lei non sia d'accordo su questo. No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Anche se ce lo dice l'Europa? Oppure lei non crede che ce lo dica l'Europa? Com'è? Lei non crede che ce lo dica l'Europa, che ce lo imponga l'Europa? No, l'Europa non dice 65 anni. L'Europa dice che il risarcimento della disparità tra donne e uomini non si risolve con l'età pensionabile, quindi l'Europa ci chiede di lavorare su un welfare nuovo, di superare le discriminazioni che esistono tra donne e uomini e di non ricorrere al risarcimento che è improprio, che è quello dell'età pensionabile. Dunque il governo, quando dice che l'Europa ci impone una cosa, sbaglia. Perché non prende in considerazione la proposta che ho fatto? Perché non si prende in considerazione di una base minima uguale per donne e uomini e poi dell'uscita flessibile? Senta Calderoli che dice invece sui premi ai calciatori. Lettori, è dalla mia parte, questo mi basta. L'uscita di Calderoli aveva innescato l'immediata reazione della nazionale con il portiere Gigi Buffon, che aveva chiesto alla politica di non cavalcare l'onda dei mondiali per fare certe sparate, e il capitano Cannavaro che aveva commentato: la verità è che siamo un paese ridicolo. Beh, ma devo dire la verità, onorevole Turco, Cannavaro che dice siamo un paese ridicolo perché il ministro Calderoli parla dei premi ai calciatori mondiali, non è che abbia tutti i torti, eh? No, infatti io penso che bisogna, siccome ho un'alta idea della politica, penso che sia una delle attività più importanti, perché dedita al bene comune, questo è ciò che dice la Costituzione, e allora la politica deve sempre dare il buon esempio. È vero che bisogna combattere le diseguaglianze, combattere i privilegi, sì, però non è con queste sortite, con queste trovate. Semmai Calderoli dia un buon esempio, faccia qualcosa a partire da se stesso, dal suo partito e dal governo che rappresenta. Dunque, secondo lei, parlare di stipendi, tagliare i premi ai calciatori è una buffonata? Come la definirebbe? No, io penso che il problema degli stipendi, degli abusi sia una cosa reale. Sì, però quelli dei calciatori è il mercato che li, insomma, che sì, li determina, no? Appunto, a parte il fatto che quando appunto il mercato, le persone che hanno talenti, insomma, è una discussione che neanche vorrei fare, talmente la trovo ridicola. Ecco, e appunto, poi, ridicola. Se si vuole affrontare invece il tema di una società che sia più sobria, della lotta agli sprechi e ai privilegi, che deve riguardare tutti e dunque anche i calciatori, se si vuole affrontare seriamente questo argomento, io credo che la politica debba dare il buon esempio. E siamo qui 20:19. Intanto volevo dire, onorevole Turco, che Sacconi sostiene che al prossimo Consiglio dei Ministri l'Italia deve introdurre l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni per le donne che lavorano nel pubblico impiego entro il 2012, perché così ce l'impone l'Unione Europea. Vabbè, secondo lei invece non è così? No, non no, è così. Credo che sia, che non dica la verità. Non dice la verità. Senta, perché discutete di massoneria? Ma non lo so perché discutiamo di massoneria, io non sono molto, come dire. Beh, c'è una discussione da lei, ma addirittura non penso che sia bene che chi è iscritto al PD non sia iscritto alla massoneria. E perché? Pare che il nostro statuto preveda, perché nella sua storia non è stata sempre una di quelle forme più limpide e trasparenti. Detto questo, non so molto della massoneria, ma mi sembra di dovermi fidare di chi dice che chi ha iscritto il Partito Democratico si è iscritto al Partito Democratico e basta. Però qualcuno solleva questa obiezione: perché sia la massoneria, cioè no alla massoneria, invece sì, che ne so, all'Opus Dei, come è accaduto, come lei sa bene, ad altre organizzazioni, eccetera. Il nostro statuto dice nessuna organizzazione, quindi teniamoci a un criterio che dice nessuna organizzazione. Uno è iscritto al PD e sta iscritto al PD, punto. E se uno è iscritto al Circolo della Caccia, eccetera, non va bene. Il Circolo della Caccia non è la massoneria, adesso non banalizziamo, non è l'Opus Dei, perché la massoneria avrà, come dire, non ha avuto una storia così limpida nella storia del nostro paese, o no? Sì, quello è vero, però la massoneria di oggi è un'altra. La massoneria di oggi. Si può essere iscritti a un circolo di caccia, al volontariato, ma evitare di essere iscritti all'Opus Dei, alla massoneria. Forse potrebbe essere una regola di comportamento. Però con l'Opus Dei alla fine avete avuto anche un deputato, insomma, iscritto proprio come rappresentante, non dico rappresentante dell'Opus Dei, e non sono state sollevate molte obiezioni, anche altre persone iscritte all'Azione Cattolica, ma legittimamente, io dico, cioè il problema, le assicuro, io lo pongo perché moltissimi iscritti al Partito Democratico, democratici, gente insomma del vostro partito, toscani, umbri, delle Marche, ci hanno chiamato quando hanno sentito questa cosa di Fioroni contro l'iscrizione alla massoneria, dicendo: ma insomma, noi siamo 20 anni che siamo iscritti prima ai DS, eccetera, poi adesso al PD, eppure siamo anche massoni, che male facciamo al partito? Come si risponde a queste persone? Che devono scegliere. Sì, devono scegliere. È meglio scegliere. Sceglieranno, però è difficile, eh? È complicato. Ogni tanto scegliere è complicato. Senta, ma lei pensa che Santoro nei confronti del Partito Democratico sia in grado? Perché se la prende sempre col Partito Democratico, anche loro non mi vogliono, non mi difendono abbastanza. Io penso che Santoro sia sempre stato molto difeso e quindi potrebbe anche evitare di prendersela sempre con il PD, ma insomma non mi pare che questo, non mi pare che né la massoneria né Santoro siano il problema fondamentale dell'Italia. Ah no, su questo, non c'è il minimo dubbio. Siano queste leggi bavaglio, mi pare che siano questa gravissima manovra. Quindi discutiamo di questo. Però insomma, se uno vuole sapere la sua opinione sulla vicenda Santoro, qui se ne parla. Vicenda Santoro, penso che Santoro debba stare nella RAI, è un bravo professionista, deve fare il suo lavoro, deve poter fare il suo lavoro, quindi sono perché Santoro resti nella RAI. Lei perché Santoro assolutamente resta. Che resti nella RAI, dopodiché vorrei dire a Santoro che nessuno è padre eterno e quindi è inutile che se la prenda sempre con il PD. Dopodiché Santoro è bravo e deve stare nella RAI in nome, e dico questo con molta fermezza, in nome di due criteri. Il Quali? Primo è la valorizzazione della competenza, lui è bravo e deve stare nella RAI. Secondo, della libertà di informazione, ha saputo andare controcorrente, ha saputo affermare il principio della libertà di informazione, per questo deve stare nella RAI. Perfetto, ma però se la prende troppo col PD, un po' troppo ogni tanto col PD, se ne esce dicendo non mi difendono. Bene, io penso che forse questo è un tratto molto maschile, trovo che ci sia sempre un po' troppo narcisismo in alcuni uomini e credo che Santoro sia anche un po' lui affetto da questo. Santoro narcisista non l'avevo mai sentita, non è male. Beh, un briciolo, sì, beh, certo, per forza. Detto questo, deve rimanere nella RAI perché è un bravissimo professionista per la libertà di stampa. Senta, nei giorni scorsi abbiamo avuto ospite il ministro Meloni, il quale ha una domanda precisa sul telegiornale principale della televisione pubblica, il TG1 diretto da Augusto Minzolini. Io le ho detto, ma onorevole Meloni, secondo lei, ministro Meloni, secondo lei, una persona che lei apprezza, immagino, onorevole Meloni, il ministro Meloni, gli ho detto, ma secondo lei è obiettivo il TG1 di Minzolini? E lei mi ha detto, beh sì, decisamente sì. Lei come risponderebbe a una domanda del genere? Lo vede il TG1 ogni tanto? Io suggerirei alla Meloni di fare un po' più, esercitare un po' di più il senso critico, di essere un po' meno opportunista, visto che lei ama fare le battaglie controcorrente e rivendica la sua militanza politica, il suo essere persona di base del popolo, le chiederei di essere più schietta e meno opportunista. Non si può dire così del TG1. Benissimo, senta, le posso fare un'altra domanda che magari per lei sarà un po' superficiale rispetto ai grandi problemi del paese, ma sa, ogni tanto giochiamo e ci divertiamo, non è che siamo sempre lì a pensare alla crisi economica. Ho letto da qualche parte che, l'ha detto credo l'onorevole Serracchiani, che va messo in discussione il logo del Partito Democratico perché dice insomma non ha molto appeal, è un po' asettico, è un po' non ha molta presa dal punto di vista così del marketing elettorale, del marketing. Che ne pensa lei di questa discussione? Un'altra discussione inutile? Sì, decisamente inutile. Comunque il simbolo, anche perché il simbolo del PD è un bel simbolo. Dice bene, io la penso diversamente dalla Serracchiani, penso che sia un simbolo che dà il senso del progetto del PD, la bandiera, le due parole che non so, mi piace, quindi non lo voglio cambiare. Assolutamente. Anche perché ne abbiamo già cambiati di simboli, io poi ho anche una ragione personale, se vuol dire. E qual è? Ne ho cambiati di simboli nella mia vita. Beh, certo. Quindi si vorrebbe fermare. Sì, esatto. E invece tornare alla festa dell'unità, ho letto anche questo. Beh no, questo abbiamo scelto di fare il Partito Democratico e quindi devono essere feste democratiche. Dopodiché io capisco l'attaccamento alla tradizione, alla bellissima storia che noi che veniamo dalla sinistra abbiamo vissuto. Credo che sia bello, ecco, poter vivere anche questa nostalgia, poterla esprimere. Però dobbiamo guardare avanti e quindi le feste sono le feste democratiche. La ringrazio molto, buona serata, onorevole Turco, stia bene. Grazie, Alessandro grazie. Da Como, buonasera Alessandro. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Spero di non fare un discorso troppo demagogico. No, ma lei può fare anche un discorso molto demagogico, quello che vuole. Sì, quando ho sentito Calderoli parlare di primi, su cui non voglio neanche entrare nel merito, e il premio va dato una volta che l'orso è stato preso, cioè una volta che hanno portato il risultato e non prima, mi è venuto in mente, per poi rilacciarmi ad un altro discorso, quanto hanno per esempio dato a Lucio Stanca per organizzare l'Expo. Cioè io, saranno meritatissimi non lo metto in dubbio e non voglio neanche entrare in discussione su questo, però a 4 anni dall'avvio dell'Expo io ho visto solamente discussioni su quanto dover pagare, chi doveva organizzare la cosa, dove dovevano andare come ufficio, e non ho ancora visto sostanzialmente questo. Lei dice, lei dice, gli anni sono 5 che mancano all'Expo, però in ogni caso lei dice tutta questa enfasi che Calderoli mette nel parlare dello stipendio dei calciatori non l'ha messa di fronte a, al fatto che ancora per quello che riguarda l'Expo siamo agli inizi, no? No, ma in generale secondo me i tagli da fare, a prescindere dai premi ai giocatori su cui si può discutere, sono altri, penso, non so. Beh, su questo non c'è dubbio che siano altri rispetto ai premi ai giocatori. No, perché vestito, la paura che ho io, ti ho detto anche prima, è che adesso tutto questo discorso legato alla riduzione dello stipendio si sta ributtando anche su di noi. Cioè, noi abbiamo i capi che dice c'è crisi, vi riduco lo stipendio, vedete? Cioè, tutti lo dicono, i parlamentari lo dicono per i calciatori. Per... E allora nei confronti di... No, fino all'altro giorno io ho speso, perché mi è stato detto non c'è nessun problema, spendete perché dobbiamo aiutare l'economia. Questo lei ha ragione, su questo lei ha ragione. Io ho un mutuo, e il mutuo l'ho fissato quando le condizioni erano... Se mi riducono lo stipendio... No, adesso non è che le possono ridurre lo stipendio così, diciamo, da un giorno all'altro. Però lei ha ragione, c'è qualcuno, e parlo lì di qualcuno a Palazzo Chigi, che una volta aveva detto, beh, insomma, bisogna aiutare l'economia a spendere, eccetera. Adesso qualche mese dopo ha detto abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità, stiamo vivendo sopra le nostre possibilità, e dunque bisogna spendere o non bisogna spendere, chissà. Eccoci, 2034 800 24 0024 TG2, se l'abbiamo, TG2. A Nocera una donna in camice è entrata nell'ospedale e ha rapito un bambino nato da poche ore. Il papà del piccolo spero lo riportino indietro. Posti di blocco in tutta la regione. La Commissione europea impone all'Italia di portare a 65 anni entro il 2012 l'età pensionabile delle donne del settore pubblico. Sacconi, non ci sono margini di trattativa. Il governo tedesco vara una maxi manovra per fronteggiare la crisi, 80 miliardi di euro in 4 anni. Il premier inglese Cameron dice i tagli cambieranno il nostro stile di vita. Con la vittoria della Schiavona, Roland Garros e tennis mania nel nostro paese, sono in molte le bambine che chiedono ai genitori di avere una racchetta. Domani sera a San Siro, a Milano, i Muse con l'unica tappa italiana del loro tour danno il via alla stagione dei grandi concerti rock negli stadi. Intervista in anteprima con Matthew Bellamy. Allora, qualche ascoltatore dice, ma come, Telese su Radio Popolare? Ma non è Telese! Popolare. Popolare. Che cosa sei andato a fare su Radio Popolare? Sei pazzo? Mi intervistano. Ti intervistano su Radio Popolare? Ma tu sei una delle voci di Radio 24, sei impazzito? Vabbè, non posso più dire un contratto di esclusiva, va bene. Possiamo fare un contratto di esclusiva? Ma su cosa ti hanno intervistato? Sono curioso. Sul caso Santoro, perché stamattina ero lì alla conferenza. Ah, ecco. Intervista, non è che partecipa ai programmi come fai qui, eccetera, no, per carità. Solo con te abbiamo la nostra sigla, le nostre canzoni. Ma cosa è scritto? Io sono Buzz Spencer e tu sei Terenzini. Sì, sicuro. Ma cosa è scritto su Santoro? Cosa stai scrivendo? Le cose terribili, no, su Berlusconi, come al solito? Pezzo, no, è il racconto della giornata. Devo dire che secondo me è anche un format televisivo, perché ora ripensavo di vedere Rio Freddi, Santoro, uno dice quando è che litigheranno, no? E lui fa battute, ha fatto una battuta per esempio sul Paragone. Sì, dicendo, perché ce l'ha tanto con Paragone Santoro? Non capisco. Perché gli ha fatto quell'attacco nel programma, infatti c'è stato l'unico alterco con Rio Freddi è stato su questo. Certo che Santoro che attacca detto, qualcuno. Ma io sono intervenuto e Santoro ha detto questa frase, ha detto prima gli fate fare la cacca sulla moquette e poi intervenite. Ma ce l'abbiamo questo di Santoro, la cacca sulla moquette, no? Ce l'abbiamo, forse sì. È sfuggito. No, non c'è sfuggito nulla. Ma non capisco però questa cosa di Santoro. Lui può attaccare chiunque e gli altri non possono attaccare lui. Non capisco questa cosa. Sai, è un problema complicato. Cioè, il Paragone non poteva fare la trasmissione in cui si parlava di Santoro, che lo trovo incredibile, insomma. No, forse non poteva fare una trasmissione sulla trattativa fra Rai 2 e Santoro su Rai 2, questo un po', no? Cioè, così come tu non puoi attaccare, che so, Oscar Giannino. Ma succede invece qui, succede. Ah sì? Sì, può anche succedere. No, Oscar è difficile l'attacco, perché sono qua. Sono quasi sempre d'accordo con lui. Dove sei? Chiamaci, Giannino! Oscar. Ci manchi, Oscar! Però chiamiamolo subito. Lo so, che chiamiamo? Qui non... Volevi sapere un qualcosa su Briatore, la sua opinione su Briatore dopo questa mail, sarebbe curioso. Ma no, dai, mi state torturando, mi stai provocando, lo sai come la penso su Briatore? No, quello lo so, però sarebbe curioso adesso pensare cosa è Giannino dopo queste cose che sono uscite su Briatore, questa mail. Ma lui lo difenderà lo stesso, immagino. Dici? Potrebbe arrivare fino a questo. Tu hai cambiato idea, dillo. No, io no. Dillo, ha ragione Telese. Io su Briatore, finché... No, il piagnisteo non lo sopporto, anch'io. Il piagnisteo su Briatore, le interrogazioni, non le sopporto nemmeno io. Oh, questo è vero. No, ormai non... sei pronto per la nuova resistenza. Ma quale pronto per la nuova resistenza? Ma Giuseppe da Treviso, fermo lì. Giuseppe da Treviso. Sono io. Ah, ti sei perso, Luca, scusa. Ti sei perso, so che stavi lavorando, non ti volevo disturbare. Però ti sei perso una cosa meravigliosa. L'onorevole Livia Turco è intervenuta qui alla Zanzara di fronte a una domanda semplice, ma scusi, ma perché discutete dei massoni? Ha tentennato un po', stava zitta. L'onorevole Turco, che ne pensa dei massoni? Ma sa, non è che sono... Ha detto, beh, non devono entrare nel Partito Democratico. Ma come, onorevole Turco? Allora quelli che stavano nell'Azione Cattolica, quelli che sono nell'Opus Dei, eccetera, beh, nemmeno quelli. Ma allora perché non avete posto il problema prima? L'ho detto, ci sono moltissimi democratici e massoni che ci hanno chiamato dicendo che male facciamo al Partito Democratico, anzi... Il nostro amico di Pistoia. Non solo il nostro amico di Pistoia, che invito a richiamarci, ma venerdì c'è stato anche Raffi, il grande capo dei massoni, Raffi, il quale ha detto giustamente, secondo me, ma qual è il problema per noi massoni essere nel Partito Democratico? Non è mica la massoneria di Licio Gelli, della P2, è un momento superato quello, parliamo di filosofia adesso, parliamo di grandi testi, della storia d'Italia. Infatti c'è questa incredibile e fervente attività culturale, sono sempre lì a discutere di Cartesio, di Spinoza... Tutti vorremmo essere un po' massoni in questo senso. Ma guarda che le lobby esistono le lobby degli amici, cioè, e ci sono anche i massoni. Qual è il punto? Perché non possono iscriversi al Partito Democratico? Perché? Se si mettono il cartellino quando stanno nell'azienda e hanno scritto io sono massone, a quelle lobby già appartengo, secondo me si può fare. Bah. Io invece volevo approfondire questa cosa della nazionale, perché mi pare che ci sia, come dire, una sorta di plebeismo per cui il merito di cui si straparla non abbia più senso. Ma sono d'accordo con te, pauperismo, io l'ho chiamato pauperismo. Ma vince il mondiale, ma quelli spostano il turismo, spostano certo. E dategli le due lire. Siamo d'accordo, vedi? Siamo d'accordo, No, non è che ogni tanto... Dovevi difendere Calderoli. No, che difendere Calderoli? Sei impazzito nei confronti di quello, rispetto a quello che ha detto, sarei un pazzo. C'è una sorta di... Improvvisamente i politici diventano i paladini del pauperismo. Siccome c'è la crisi, allora bisogna che tutti risparmi, tutti vado in giro vestiti di stracci, che il mercato sia sospeso, che Santoro non guadagni una lira, chiudiamo le borse, chiudiamo, poi i primi a non risparmiare, poi però sono... quel bel taglio del 50% del finanziamento pubblico, quello no, è stato annunciato, adesso si è ridotto forse i soldi ai partiti arrivano sempre. Prima era stato annunciato il 50% in meno, 50 centesimi invece di un euro a capoccia. Adesso si è ridotto forse, come dici tu, al 10%. Cose da pazzi. Guarda. Uno dovrebbe dire sempre così, ma scusi, ma non avete detto il 50% in meno del finanziamento pubblico dei partiti? Invece di parlare degli stipendi dei calciatori? Beh no, si è ridotto al 10%. Poi c'è sempre un se, no, però bisogna che interviene quell'altro. Sugli stipendi dei parlamentari? Beh sì, però poi decide la Camera, decide il Senato. Vedrai che non se ne farà nulla nemmeno lì, eh? Scusa, e Speroni sui 1.500 euro in più ai collaboratori del Parlamento Europeo? Ne vogliamo parlare? Speroni, sai, con questo 90% può dire qualunque cosa. 97% di presenza, sì, ma che gli perdoniamo persino le sue cravatte. Ma che i collaboratori... Non si può allargare sui collaboratori. I collaboratori, 1.500 euro in più del Parlamento Europeo. Può portare che... la cravatta a pesce, ma non può più battere cassa no. Collaboratori. No. Francesco da Cagliari, anche perché... 40.000 euro. No, appunto. Mi pare che 40.000 già. I collaboratori dei parlamentari europei? Sì, credo che sia un reddito, uno stipendione, no? Non una cosetta, neanche quello del portaborsa. Francesco da Cagliari. Sì, salve, stavo pensando per il finanziamento ai partiti, ma vietare quello privato e finanziarli con l'8 per mille? senza scegliere che partito, se destra, sinistra. È una butade questa qua, Francesco. Una butade? Ma non lo so. A me che sembra che i problemi li creino più i finanziamenti privati che quelli pubblici. Infatti pare che non bastino. Quello li porterebbe anche a risparmiare, metterebbe tutti sullo stesso piano. Per me i finanziamenti privati vanno aumentati, resi trasparenti naturalmente, ma aumentati. Ma perché un privato deve finanziare la politica? Non deve anche avere... negli Stati Uniti funziona così, è tutto trasparente, nessuno si lamenta. Ma sono democrazie arretrate, non sono come arretrate. La democrazia americana è una democrazia arretrata. Francesco. Cioè, da una costituzione di due secoli che la vogliamo paragonare con la nostra democrazia, che è stata fatta 60 anni fa, con principi e valori che gli americani si sognano. Beh, allora torniamo al finanziamento pubblico dei partiti, scusi. Quello sì, classico. Ma vietando il privato. Cioè, ma guardi che oggi il privato. Il privato. Non è che lo Stato, non è che sono le tasse. Sì, Francesco, ma oggi il privato è poca roba, il finanziamento privato dei partiti, rispetto a questa, al finanziamento pubblico travestito da rimborso. Io sono un repubblicano, che sono significa? Sono l'Amalfiano. Capito, la Malfa fu il primo a denunciare che le grandi società finanziavano solo certi partiti, che non era giusto nei confronti dei partiti dell'opposizione. Ma poteva essere giusto valori, se fosse stato trasparente, Francesco, se fosse stato trasparente, poteva essere anche legittimo, importante ho capito, che... Ma se sarebbe stato trasparente, se avessero aggiornato, per esempio, i 5 milioni della, quando era stata fatta la legge di finanziamento che non andava iscritto, che poi è da lì che si sono creati grossi problemi, i 200 milioni di Bossi e di la Malfa figlio non sarebbero stati un reato. Anche perché no, può darsi. Non li hanno intascati, non è una finanziamento. Un attimo solo, Francesco, resti lì. Abbiamo Giuseppe da Treviso. Buonasera. Buonasera, grazie per avermi richiamato. Dica. Se no, io volevo porre il problema della Chiesa che non paga l'ICI. Ancora? E adesso che c'entra sta Chiesa, l'ICI, eccetera? Come c'entra? Tutti dobbiamo fare sacrifici. Che lo fa. Ho capito, Giuseppe, però ci parli di qualcosa di più. No, perché no? Parli dell'ICI della Chiesa, prego, vada. Tanto qui si può parlare di tutto. Non mi sembra un problema di strettissima attualità. Abbiamo posto oggi 10 temi, ci parli di uno di questi. Periodo che ci paghiamo le tasse, sì. La Chiesa fa la pubblicità che di devolvere praticamente l'8 per mille a lei. E io dico invece no, bisognerebbe togliere l'8 per mille e nello stesso tempo fargli pagare anche l'ICI delle case che non sono di culto. Va bene, d'accordo. Magari qualcuno avrà voglia di riprendere questo tema, ma abbiamo il tra. Francesco, in che modo concludiamo il suo intervento? Niente, se mi posso prenotare se si dovesse riformare il trio con Oscar, con Giannino, perché prima sentendo parlare di massoni mi è venuto in mente lui che è stato mio segretario dei giovani. Che c'entra la massoneria? Nei repubblicani abbiamo fatto una grossa battaglia contro i massoni in Sardegna, aveva Marmandino Corona. Stato messo in minoranza nello Giannino, dove sei? Luca, Giannino, chiamato in causa anche da Francesco da Cagliari, repubblicano come era Oscar una volta, repubblicano, tu non te lo ricordi? Tu non te lo ricordi Giannino repubblicano, Telese? Ma come no? Aveva dei ricettini. Ma tu sai che lo sai che Giannino è stato anche uno dei ghostwriter di Spadolini, sì. Tutti abbiamo delle colpe atroci. Ma come colpe atroci? Ma sei impazzito? Quali colpe atroci? Era giovanissimo, altro che me e te siamo dei dilettanti al confronto. Giannino era nell'ufficio di Spadolini già nel 1982, insieme a Stefano Folli, non so se ti rendi conto. No, è roba da mettere, da far tremare le vene. Mamma mia, come sei sarcastico anche su queste cose. No, ma Spadolino non l'ho mai considerato uno statista, è stato un... Ma come no? Ma dai, su, ma stai bestemmiando, dai, su. È stato un leader repubblicano mediocre, niente a che vedere con la forza di Videntini e di La Malfa. Un vile repubblicano mediocre, ma sei pazzo, Teresa. Era innamorato del potere, tant'è vero che è morto di crepacuore quando ho visto che dopo un voto a cui io assistetti perdette la presidenza del Senato. Che dobbiamo fare, i Santini sono tutti eroi perché sono morti, no? Ah no, per carità, no. È morto di crepacuore perché ha perso la poltrona. Siamo qui alle 20.48, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Roberto da Padova, buonasera. Roberto? Non c'è più. Claudio, provincia di Frosinone. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Buonasera a lei. Dunque, stasera è meno graffiante la trasmissione, è piacevole ascoltarla e sentire tutti gli interventi. Meno graffiante, che intendi? Sì, graffiante perché molte volte quando mi capita di viaggiare la sera e ascolto la vostra trasmissione, sento dei commenti di persone arrabbiate, inquiete, che se la prendono praticamente, lo sport adesso è quello di prendersela con il politico. sì. La casta è il dipendente pubblico, la casta è il politico, perché purtroppo è così. D'altra parte, adesso è venuto fuori che la casta è anche quella dei giocatori di calcio, quelli che magari... No. Sono quelli più fortunati, quelli più bravi che giocano in Serie A, che giocano in Nazionale. Vabbè, ma questa è una cosa risaputa da sempre. Ora, che Calderoli abbia detto quella cosa, lì per lì pure io sono rimasto, sono un ex calciatore pure io, insomma, come... Pronto? La sento, la sento. Sì, sì, sì, dicevo, ho giocato a calcio anch'io come tante altre persone, immagino. E, la cosa lì per lì mi ha lasciato un po' di... Ma che cavolo sta di questo? Poi invece, approfondendo un attimo l'argomento, ho capito che forse si riferiva, dopo la battuta di La Russa di rivolgersi alla Padania, al famoso, la famosa tassazione del TAR. Cioè? La famosa? Non ho capito bene. Vabbè, si è interrotta la comunicazione. Marco da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Ma ho sentito tanti interventi sul premio ai calciatori su cose assortite, e mi ha stupito che nessun ascoltatore sia intervenuto per commentare la frase di Berlusconi, che all'inaugurazione del popolo dei promotori della libertà ha detto che loro devono essere un esercito che combatte per la libertà contro l'oppressione del potere giudiziario e tributario. Ma ce l'abbiamo questo? Berlusconi sui promotori della libertà? Voi perché... l'avete trasmesso. Sì, no, abbiamo parlato dei promotori della libertà, però non so se abbiamo trasmesso questa frase di Berlusconi. Sì, esattamente questa frase di Berlusconi avete trasmesso. Sì, sì, allora? Ma ha stupito uno che... Perché era in contraddizione con la nuova linea di Berlusconi sull'evasione fiscale, lei dice? No, insomma, lì che in contraddizione. Ma ha stupito... Lei dice che quelle se ne possono trovare sempre di contraddizioni. Sì, contraddizioni, insomma, quando poi si governa per 15 anni, cioè, è difficile non smentirsi mai, lui forse si smentì. E poi c'è la famosa massima di Rotondi, no? I politici devono essere presi per quello che dicono in quel momento, insomma. Sì, vabbè. Però non commento tanto la frase di Berlusconi quanto il fatto che una frase così, che a me personalmente sembra abbastanza grave, sia passata assolutamente inosservata, e che la gente invece preferisca questionare sul fatto che... Cioè a lei cosa stupisce? Che Berlusconi chiami alla guerra i promotori della libertà, il che è già ridicolo, per combattere contro l'oppressione fiscale? Non ho capito bene. Sì, e quello che trovo stupefacente non è tanto che lui faccia dichiarazioni di questo tipo che ha già fatto altre volte, ma che oramai la cosa passi assolutamente inosservata. Ma no, ma non passa inosservata, sa, Berlusconi... ci ha abituato a parlare tante volte al giorno, dunque in questo caso credo via web, non so dove, sui promotori della libertà, li ha chiamati a raccolta, poi chi sarebbero questi promotori della libertà? Io ne voglio conoscere, prima o poi voglio conoscere qualcuno, lo voglio invitare qui in studio da noi. Lei è un promotore della libertà, a parlare, insomma, non trovo strano che abbia usato questi termini. Avevo capito che erano mobilitati contro gli sprechi in realtà, poi adesso anche contro l'oppressione fiscale, poi cosa significa concretamente? Se lo risenta, e poi mi dirà, magari domani sera dirà, se lo riterrà in trasmissione, se non trova stupefacente che dopo un'ora di trasmissione nessuno abbia ritenuto di fare un commento su questo. Va bene Marco, grazie, raccogliamo il suo invito. Vincenzo da Catania. Sì, salve dottor Cruciani, buonasera. Buonasera, io dica pure. Volevo semplicemente intervenire su quello che ha detto l'onorevole Livia Turco sulla massoneria, sì. Quando si parlava di massoneria, perché la massoneria viene vista come la loggia P2, come quelli col cappuccio, quelli strani, quelli che fanno cose losche. Lei è massone? Io sì. Lei è massone, fratello? Sì, sì, sì, sì. Vabbè, ho capito, lei è parte in causa però. Vabbè, Vincenzo. Ma io voglio semplicemente dire come sia ipocrita. Ma lei è anche del PD? No. No, non è del PD. No, non sono del PD, volevo semplicemente sottolineare come la politica sia assolutamente miope, ipocrita, perché lo è ipocrita, sì. Perché poi andiamo a vedere che tra le fila della massoneria c'è tanta gente che fa politica, eh? No, beh, quello è normale. Però scusi un attimo, Vincenzo, anche... però sono curioso di una cosa. Cioè, come ci sono, sì, credo 20.000 iscritti alla massoneria oggi, no? 21.000, sì, eccetera. Secondo, sì, lei, di questi 21.000, quanti sono elettori iscritti, vabbè, del Partito Democratico? Ma ce ne saranno tantissimi. Tantissimi, migliaia. Sì, sicuramente. Ma insomma, le pare normale che il Partito Democratico così faccia questa campagna contro la massoneria? Perché questo... Ma è come mettersi il vestito nuovo della domenica, no? Perché per ignoranza molti vedono la massoneria come qualcosa di deviato, ma non è tutta deviata. La massoneria vera, la massoneria ufficiale, si fonda su tre principi che sono quelli della libertà, uguaglianza e fratellanza. E lei che fa, quindi, quando va con i suoi fratelli alle varie riunioni? Che fa lei, Vincenzo? Noi altri non parliamo mai di politica. E di che parlate? Né di politica né di religione. E di che noi parlate? Altri facciamo studi umanistici che servono a migliorare l'uomo, punto. Ad unire e mai a dividere, quindi... non facciamo mai discussioni né di politica né di religione, che hanno sempre diviso gli uomini. Però è un po' una setta la massoneria, o no? No, no, non è una setta. Se, cioè, una setta, crede... intendo, per lei viene prima la massoneria o un'istituzione? Sicuramente un'istituzione, tra le altre cose la massoneria, chi aderisce alla massoneria aderisce anche al rispetto delle regole che ci sono nello stato in cui lui si trova. Va bene, Vincenzo, con la sua telefonata chiudo. Luca da Roma, Marzio da Roma, Stefano da Prato, Gianni da Milano, ci sentiamo domani 18:30.